Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Come avrete intuito dalla sigla, è appena iniziata la trasmissione Terminis Magnetics, curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione del Friuli e di Trieste. Siamo in diretta, come dice sempre il regista, tutto d'un pezzo, stasera appunto una formazione ridotta, diciamo ferragostana, e quindi facciamo quello che possiamo qua in regia. E niente, vi ricordo che siete su Onde Furlane, appunto siamo in diretta, la Radio Onde Furlane è la radio che ci ospita, e così partiamo con un po' di musica e poi arriviamo ai contenuti. Sì, allora un... no, ma lasciamo un po' di musica in sottofondo. Allora un saluto anche da parte mia qui dagli studi infuocati di Radio Onde Furlane per questa puntata ferragostana. Prima di partire con il... sì, del 17 agosto, di giovedì 17 agosto del 2023, stiamo andando in diretta e sono le 20:11. Prima di partire con la nostra scaletta di stasera, volevo, diciamo, siccome non è tanto attinente appunto alla, alla nostra scaletta, volevo solo aggiungermi all'inizio per questo, così, mia considerazione sul personale, su il discorso della solidarietà ai compagni colpiti dalle operazioni, dalle varie inchieste repressive di questi mesi sull'istigazione a delinquere, poi appunto facendo leva su questo reato cosiddetto di opinione, arrampicandosi alla 270 bis, che è un reato associativo, partendo però da una considerazione un po' più ampia che riguarda appunto il fatto che quando questi compagni sicuramente questi compagni, mi riferisco ai compagni di Carrara e Liguri, che sono stati colpiti da restrizioni varie, da dispositivi penali per la pubblicazione del quindicinale anarchico Bez Motivni, sicuramente questi compagni e compagne, quando hanno intrapreso questa impresa, erano sicuri di andare incontro a problemi di questo tipo. Della quantità, diciamo, l'intensità di questi problemi sicuramente non era, sì, non poteva essere prevedibile, comunque non era niente di, per loro, insomma, imprevedibile. Perché? Perché sono delle compagne e dei compagni che sanno, sono consapevoli del rischio di finire in carcere, in quanto le cose che venivano scritte e l'idea stessa di pubblicare su carta, insomma, le loro i contenuti comportavano la possibilità di conseguenze pratiche, cioè cioè in termini di agire non era una semplice mugugnare lamentarsi senza trarre conseguenze da questi lamenti, come solito, insomma, normalmente, diciamo, costume fare. E voglio ancora intervenire leggendo un testo di una formazione politica degli anni 70, di cui mi ero preposto, insomma, mi ero prefisso di fare una puntata in queste settimane, che è insomma, che prendo da una pubblicazione uscita quest'anno 2023 da Nautilus, è il secondo volume in due tomi della critica radicale in Italia, e la formazione politica, le due formazioni politiche erano organizzazione consiliare e comuntismo. Questo intervento invece, questo intervento viene dal numero zero di Comuntismo Ultima Internazionale. Scusate, per l'Ultima Internazionale. La legge sulla stampa, la legge, la stampa. Quando ci siamo messi in testa di fare il giornale Comuntismo per l'Ultima Internazionale, nostra intenzione era di creare casino intorno alla legge sulla stampa. Non perché ci prema la democratica libertà di opinione, sul cui senso ci siamo già espressi, rilevando che questa libertà, tra virgolette, indica il bisogno capitalista di mantenere e accrescere la produzione di ideologie, ma perché riteniamo indispensabile creare a noi stessi e ai reali rivoluzionari un minimo spazio per editare e quindi diffondere il proprio pensiero. È chiaro che i rivoluzionari possono sbattersene delle norme che regolano le pubblicazioni, stampati, e molti anche tra di noi lo hanno ripetutamente fatto, ma è altresì chiaro che ciò comporta un oggettivo impedimento alla diffusione massiccia dei testi che risultano illegali. La nostra idea era di dare a Comuntismo, come abbiamo fatto per questo numero unico, un direttore responsabile qualsiasi, cioè non iscritto all'albo dell'intrepido ordine dei giornalisti pubblicisti, richiedendo nel contempo al suddetto ordine l'iscrizione nei suoi ranghi del nostro direttore, benché sprovvisto dei requisiti richiesti, al fine di poter registrare regolarmente la testata del giornale. Dato che i giornalisti berciano continuamente sulla libertà di stampa, ma certo intendono la loro libertà di stampare le ideologie commissionategli, il più che probabile rifiuto avrebbe smascherato anche agli occhi dei più ingenui il vero volto di questi democratici della penna e la repressione stessa, che non sarebbe tardata sotto forma di sequestri, denunce, eccetera. Scusate, e la repressione stessa non sarebbe più parsa solo, cioè, che non sarebbe, e la repressione stessa che non sarebbe tardata, eccetera, eccetera, non sarebbe più parsa solo come il frutto della bieca reazione in agguato, ma anche come portato del progressismo recuperatore, di fatto però altrettanto repressivo. È però ovvio che questa operazione, per avere il senso e il peso dello scandalo, non può essere messa in piedi solo da noi, le teste calde, i provocatori, ma ci vorrebbe un contemporaneo intervento sulla stessa linea di un certo numero di giornali che si definiscono alternativi o simili, che, rinunciando al loro direttore di copertura, si ponessero così sul nostro stesso piano. Un breve giro di opinioni, ristretto, è vero, ma significante, ci ha dimostrato che non sembra esservi nessuno disposto a mettere in gioco la sua testata. Per cui il senso di questa notarella è: 1. Qualcuno ci smentisce facendosi vivo, ammesso che lo sia, e dicendosi d'accordo, e allora mettiamo in piedi tutta l'operazione. 2. Siamo isolati in questo proposito, e allora dobbiamo trovarci anche noi, gioco forza, un direttore regolarmente responsabile. C'è qualcuno che è talmente conseguenziale con le sue idee di libertà di stampa da offrirsi, benché sia noto che noi... C'è qualcuno che è talmente conseguenziale con le sue idee di libertà di stampa da offrirsi, benché sia noto che noi, in quanto ci consideriamo coerentemente rivoluzionari, siamo sì libertari ma antidemocratici? Staremo a vedere, se no, come sempre, ci arrangeremo da soli. mentre contemporaneamente annuncio che stiamo ascoltando da qualche minuto, da una decina di minuti, questo lavoro della band Discreet che si intitola This Is Mine, è un LP del 2022. Ecco, quindi che dire ancora sul discorso della cosiddetta libertà di stampa? E niente, il discorso appunto è questo, che i compagni e compagne di Bezmotivni non sono stati colpiti dalla repressione, perché appunto ci sono dei giudici che cattivoni, che non permettono alle idee, a determinate idee, di poter circolare. Ma al contrario, bisogna ribaltare il ragionamento, quelli che sono i contenuti del quindicinale anarchico Bezmotivni sono apertamente di scontro con l'informazione mainstream, con tutta la stampa in quanto fissante ideologico delle vite espropriate nostre, nel senso che appunto quando si decide di fare una pubblicazione di quel genere, appunto la logica è quello dello scontro e della conquista di uno spazio pubblico di uno spazio pubblico di parola che spontaneamente è tutt'altro che a portata di mano, ecco. Quindi è già un'azione intraprendere un'impresa del genere, mettere in piedi un giornale che si dice anarchico, che ripropone i contenuti le motivazioni degli attacchi al capitale e al dominio, e intrattiene rapporti epistolari con i prigionieri rivoluzionari, eccetera eccetera. In questa qui la logica è tutto qua. Tasto. We'll be right back. Sì, eccomi qua di nuovo. Allora, intanto stavamo ascoltando e stiamo ancora ascoltando in sottofondo Les Justines, che sono un gruppo musicale, detto anche band, multietnico, diciamo, e di donne di varie provenienze. Comunque il gruppo, diciamo, proveniva dal Canada. E non so neanche se esiste ancora, e questo CD che si intitola Langage Fantastique è del 1994. E allora arriviamo un po' alla proposta di scaletta, insomma, per questa puntata di Zerni Svagnetti, che abbiamo pensato di ragionare appunto su se abbiamo chi ha ricevuto, insomma, l'anteprima, diciamo, di dedicare in qualche misura la trasmissione alle recenti alle donne, insomma, che sono recentemente morte all'interno del carcere femminile delle Vallette a Torino, e perché appunto le loro morti non cadano nell'oblio, non vengano anche così dimenticate in fretta, e anche in un certo senso per onorarle. Però arriviamo, diciamo, a parlare di queste tre donne, Graziana, Susan e Azzurra, e partendo da un episodio del 1989, sempre successo alle Vallette, una strage di detenute. Era la notte del 3 giugno dell'89, appunto, quando divampa un rogo nel braccio femminile del carcere Lo Russo e Cotugno, e in questo rogo perderanno la vita 11 donne, 9 prigioniere e 2 guardie, che nel tentativo di aprire le celle, insomma. E di questo fatto ho pensato di parlare di questo fatto attraverso una narrazione autobiografica della Susanna Ronconi, che in quel carcere era detenuta nell'89, e lei poi diciamo questa sua narrazione del 2014, ma è secondo me significativa, perché, per ricollegarmi un po' a quello che diceva chi mi ha preceduta, è anche questa, è una presa di parola, diciamo, e la sua fuori dal discorso, insomma, una presa di parola istintiva che le viene proprio, per lei è impossibile è un'azione che per lei è impossibile da non fare, ecco, da non compiere, e in questo sa, secondo me, un significato importante, oltre che per quello che poi lei, insomma, racconta. E questo nonostante Susanna Ronconi sia diventata una buona democratica, diciamo, negli ultimi anni. Allora, vado a leggere. 2014. Come ogni anno, in occasione del 25 aprile, si aprono i cancelli dell'ex carcere Le Nuove a Torino, luogo di detenzione e morte di molti partigiani e poi carcere di molti e molte, fino al 2003. Ora è un monumento di archeologia penitenziaria, esempio mirabile di panottico ottocentesco, celle deserte, alcune sono spogli musei, di quotidianità deprivata. La gente che non sa si aggira con la stessa meraviglia che suscitano le segrete di un castello medievale. Ma noi là abbiamo speso le nostre vite prima che la moderna edilizia penitenziaria portasse recluse e reclusi ai confini della stessa città, nel nuovo carcere delle Vallette. Decido che quest'anno varcherò il portone verde di Corso Vittorio, da cui tanti anni fa e dopo tanti anni il carcere mi aveva alla fine sputata fuori, prima per i brandelli di tempo del lavoro esterno e della semilibertà e poi per la libertà ritrovata. Sentimenti contrastanti, sapevo che mi avrebbe fatto male, o forse non male, piuttosto che mi avrebbe straniata. E allora eccomi, non si entra dal portone verde ma dal lato di via Boggio, via che fatico a ribattezzare Falcone Borsellino. Proprio lì sull'angolo, tra il corso e via Boggio, c'era il vecchio minorile, poi diventato le nostre celle, quelle della detenzione politica dopo l'uscita dagli speciali. Due tigli fanno ancora capolino oltre il muro, piccolo spazio di ghiaia consumato dai nostri passi in cerchio. Giorni, mesi, anni di passi in cerchio. Già al primo sguardo tutto mi balza davanti, torna dall'abisso del tempo e si fa qui presente lancinante. Ma ancora non è nulla, nulla rispetto all'impatto che avrò nella sezione femminile. I tre piani di ballatoi chiusi da una grande gabbia fino al soffitto, tirata su dopo che la morte di chi si era gettata dal terzo piano, sfinita dalle sbarre e dalla vita, aveva fatto correre ai ripari. Ripari, nuove gabbie, nuove chiusure. La morte qui dentro non fa mai pensare a quanta libertà servirebbe per evitarla. Fa solo chiudere nuovi cancelli. È questa l'anima profonda dell'istituzione totale. A me la sezione femminile allora era sembrata piccolissima, buia, angosciante. La ricordavo invece una piazza, un palazzo ingabbiato, un vociare, un viavai di donne e bambini piccoli, una parrucchiera, una stireria. E ho pensato, come abbiamo fatto? Come ho fatto a tenere, a lottare, a pensare, ad amare, a vivere comunque? Una bambina alle mie spalle chiede alla madre: ma mamma, vivevano qua con questo gabbione? E la madre, forse per non allarmarla o forse davvero perché lo pensa, ma no, lo hanno messo adesso per il teatro. Io taccio. Comincia il giro della rotonda, delle sezioni, delle celle. Straniamento ancora. Per la prima volta vedo la sezione maschile che aveva rinchiuso per tanti anni Sergio. Luogo sconosciuto fino a quel giorno del 2014. Si arriva davanti a una lapide di marmo, ricorda Rosetta Sisca e Maria Grazia Casazza, agenti morte durante l'incendio che il 3 giugno 1989 ha investito la sezione femminile dell'allora nuovo carcere delle Vallette. La guida ne parla dopo aver ricordato altri due agenti uccisi dai militanti della lotta armata. Ci sono due nomi, ma le donne morte sono 11. 9 erano ragazze, donne detenute. Ivana Buzzegoli, Rosa Capogreco, Paola Cravero, Lauretta Dentico, Lidia De Simone, Morsula Dragutinovic, Editta Rovat, Beatrice Palla, Radica Trajković, detta Vesna. Nessuna lapide per loro. Mi cresce dentro una ribellione, all'inizio sorda e silenziosa, dopo pochi secondi una frase della guida. Sono morte per liberare le detenute. Le detenute si sono infatti tutte salvate. Non taccio. Dietro di me un gruppo di 30 cittadini mi ascolta dire che sono morte 9 detenute e che è un insulto alla loro memoria dimenticarle e anzi farlo con una menzogna. Lui, la guida, mi dice se sono sicura di quello che dico. Io gli dico che c'ero. Silenzio dei cittadini attorno a me, imbarazzo, ho un nodo in gola e lo stomaco chiuso, esco di corsa, esco dal carcere ricordato per i partigiani innocenti, gli ebrei innocenti, gli agenti innocenti e in memoria delle migliaia di vite non innocenti che li hanno vissuto, sofferto, espiato, lottato. La lune et le soleil. Le ciel, la neige. Io, Liviana e Sonia eravamo allora detenute lì nelle celle di fronte e a fianco di quelle delle donne che sono morte. Quella notte eravamo in permesso 24 ore, solo 24 ore, eravamo a casa di Mimmo Calopresti. Un breve sonno, lui doveva alzarsi presto la mattina, aveva acceso il telegiornale delle 7. Piazza Tiananmen. E poi un incendio, carcere femminile di Torino, 11 donne morte. Ci chiama con il viso teso, alzatevi, dice, è successa una cosa terribile. Ci precipitiamo sul televisore. Le immagini ci serrano la gola, sono le nostre celle e il nostro braccio. Le riprese mostrano lingue di fumo nero stampate sui muri, uscite dalle finestre delle celle. La terra. Anche dalle nostre, e sbarre di ferro accartocciate. Non si fanno ancora i nomi delle donne morte. Telefoniamo ai nostri avvocati, diciamo loro di venirci a trovare subito nel pomeriggio. Noi rientriamo immediatamente. Le donne sono state trasferite alle nuove, il vecchio carcere che avevamo da poco lasciato per la nuova struttura, pochi mesi prima. Torniamo anche noi al vecchio carcere, quello dei nostri ultimi anni. Confusione, panico, nulla funziona, celle vuote e disadorne, abbandono, occhi gonfi, urla, sedativi a fiumi, tensione come lama di coltello, svenimenti, occhi persi e rabbia e odio. Le donne sono disperate, 9 di noi sono morte, 2 agenti sono rimaste soffocate tentando di aprire le celle, mentre per un tempo che deve essere sembrato infinito nessuno interveniva, nessuno si muoveva. Una catasta di materassi. Centinaia era stata accumulata all'aperto sotto le nostre finestre, coperta da teli di plastica. Dal primo grido delle donne all'arrivo dei pompieri sono passati 45 minuti, dicono. Non c'erano le chiavi delle celle, né quelle delle rotonde, non funzionavano i bocchettoni dell'acqua. È scattato il piano antisommossa che blocca ogni movimento. Racconti come da un'allucinazione, ma quella è la nostra vita. Bisogna fare qualcosa, agire, incanalare il dolore, mettere a frutto i ricordi, impedire la disperazione. Il fare e fare insieme è una cosa che sappiamo e nel giro di 48 ore con l'aiuto dell'avvocata Bianca Guidetti Serra fondiamo con tutte le donne l'associazione 3 giugno che avrà lo scopo di testimoniare, di sorvegliare che si faccia un processo e che sia un processo giusto sulle responsabilità, sui ritardi nei soccorsi, su un carcere che non ha un piano antincendio, su un carcere che sputa sulla vita di chi vi è rinchiuso. Il processo si concluderà con 6 assoluzioni. Non è stato nessuno. We'll be right back. prison, wait for the chair, and get the hell off this planet full of evil. Your corruption in these courtrooms. Eccoci qua di nuovo. Allora, intanto in sottofondo abbiamo ascoltato un po' di pezzi e adesso lasceremo anche in sottofondo Le Arum Scarum, in un lavoro del 1999, il CD si intitola Mental Health. Allora, così vi ho proposto questa lettura di Susanna Ronconi, questa narrazione di Susanna Ronconi di ciò che è successo il 3 giugno 1989 al carcere delle Vallette, diciamo quello che era quella volta il nuovo carcere, e appunto l'incendio dove hanno perso la vita 9 prigioniere e 2 guardie. Però anche nel suo racconto non c'era solo, diciamo, la cronaca di quello che è successo, ma anche come i fatti vengono manipolati e, diciamo, anche di come la vita delle persone detenute considerata come una non vita, cioè la loro, il ricordo di queste detenute viene totalmente cancellato da questa istituzione, appunto, associazione, non so, che gestisce questa specie di museo che adesso è quella sezione, quell'ex sezione femminile, e rimane una memoria mistificata solamente delle guardie buone che perdono la vita per salvare le detenute che si sarebbero salvate invece, no? E quindi viene completamente rovesciata di 360 gradi la realtà, non si riesce nemmeno a, cioè non c'è nessun responsabile. Ricordo che lei dice centinaia di materassi, erano 300 materassi di poliuretano espanso, che è un materiale altamente tossico e altamente infiammabile, che ha preso fuoco per motivi che non sanno ancora, anche per un mozzicone di sigaretta, per dire, e questi materassi erano collocati in un luogo dove non dovevano stare, abbandonati lì, dovevano essere, perché dovevano sostituire i materassi vecchi, e l'incendio di questo materiale, insomma, ha provocato esalazioni di acido cianidrico e acido cloridrico, quindi le persone non hanno avuto scampo nella maniera più assoluta. Tra l'altro, vabbè, lo dico perché mi aveva colpito, non l'ho letto, ma la gatta, una gatta che aveva Susanna Ronconi dentro la sua cella, si salva, la gatta con i gattini, perché per fortuna lei l'aveva affidata a un'altra prigioniera che aveva una cella leggermente discosta da dove si è sviluppato l'incendio, e questa prigioniera è riuscita a salvare la gatta e a salvare se stessa anche, bagnando degli asciugamani e respirando lei e tenendo questo asciugamano bagnato sopra la cuccia della bestiola, e insomma, quindi c'è anche questa roba per cui alla fine, insomma, si sono salvate sia questa compagna che questa gattina. E questo fatto del negare, diciamo, del negare la realtà ma non solo del negarla, proprio del cancellarla la realtà completamente per costruire una narrazione buonista così fasulla, e non stupisce, perché appunto le persone che sono ostaggi delle istituzioni totali purtroppo appunto subiscono questa sorte, e giustamente la Susanna Ronconi dice no, non si deve star fermi di fronte a una cosa del genere, è importante agire. Abbiamo visto che le donne costituiscono questa associazione, e con l'aiuto di Guidetti Serra, dell'avvocata, cercano, insomma, comunque si mettono in moto, fanno in modo che la cosa non venga dimenticata, e anche cercano di inchiodare in qualche maniera l'amministrazione penitenziaria alle sue responsabilità. Vabbè, poi vengono tutti assolti, chiaro che non si toccano tra di loro, ma comunque loro non mollano, cioè fanno questa cosa qua. Allora, anche relativamente a queste Graziana, Azzurra e Susan, che sono le tre donne morte recentemente alle Vallette, colpisce nella stampa mainstream, diciamo, i vari articoli, cioè il tono riguardo ad esempio a Susan, un tono scandaloso per come la vedo io, nel senso che viene detto, cioè viene scritto in svariate testate, si è lasciata morire, cioè si è lasciata morire come se lei fosse stata appunto a casa sua da sola e si fosse lasciata morire in questa condizione, mentre si trovava in una sezione psichiatrica, tra l'altro nella sezione psichiatrica del carcere delle Vallette, perché l'avevano messa lì, perché appunto subito dopo essere stata trasferita da Catania a Torino, già il giorno dopo aveva iniziato a non mangiare, a non bere, e senza, diciamo, cioè perché comunque donna appunto che era stata condannata a 10 anni per un reato, e tutti quanti insomma enfatizzano la roba del reato per renderlo più odioso, comunque era un reato di immigrazione clandestina e tratta, e questa Susan aveva anche un figlio o una figlia, dico un figlio o una figlia, comunque aveva un figlio piccolo e in queste, appena è stata trasferita a Torino da Catania, appunto la sua famiglia era a Torino, chiedeva di vedere il figlio e nessuna, non ha mai ricevuto nessuna risposta, ma inoltre è rimasta questi dal 22 luglio insomma in questa cella della sezione di, aspetta come si chiama, articolazione per la tutela della salute mentale, che già la definizione fa venire i brividi. Sono quattro celle praticamente, specificamente alle Vallette, dove vivi in isolamento, non hai nessun tipo di vicinanza empatica, colloquio, ascolto di nessun tipo, tranne quando vengono a darti la terapia, che tra l'altro Susan rifiutava, e vieni controllato 24 ore al giorno da una telecamera, che tanto le guardie se ne fottono delle telecamere, tanto è vero che sappiamo che spesso e volentieri i suicidi avvengono a telecamera accesa, eppure nessuno interviene, cioè intervengono di solito a morte conclusa e conclamata. Comunque la cosa che colpisce relativamente a Susan ad esempio è che questa cosa di essersi lasciata morire, e poi che il problema non è il fatto che una persona possa essere lasciata a morire di inedia nel silenzio, nemmeno le sue compagne di sezione sapevano che lei rifiutava, perché lei era nell'isolamento e quindi è stata psichiatrizzata, diciamo, e poi pur avendo mantenuto la lucidità non è stato avvisato nessuno di questa sua presa di posizione, di questa sua messa in gioco, diciamo, per la insostenibilità della sua condizione. E il problema è adesso è vedere, cioè ci sono vari articoli demenziali, ma anche Nordio poi ha detto le sue, e il ministro appunto, ma non è mica detto che sia morta per quello, potrebbe, ma non è detto, comunque indagheremo, hanno fatto l'autopsia, altra roba, io con le autopsie ce l'ho, ma per dire, sono tutti preoccupati di pararsi il culo e di dire ma non era, Nordio dice, ma non era uno sciopero della fame, perché lei non metteva in discussione l'istituzione, lo Stato. Ha smesso di mangiare, si è lasciata morire, si rifiutava di mangiare e di curarsi. Quindi un banalizzare da un lato e dall'altro lato anche qui rovesciare praticamente la realtà, insomma, manipolare la realtà e rovesciarla a proprio uso. Boh, ancora un po' di musica e poi continuiamo. Thank you. Siamo sempre su Zardinis Magnetics, sono le 21 di questo giovedì 17 agosto, stiamo in ascolto di un gruppo, che si chiama Syndrome 80 che loro sono originari di Brest, sul confine, la Francia orientale. E l'LP del 2023, Prison Imaginaire. Sì, stavamo dicendo quindi questo fatto che le prigioniere, tutte queste prigioniere, parlavamo di Susan Jones, vale per queste prigioniere, le tre che sono morte insomma da giugno a oggi, ma in generale per le persone che muoiono in carcere non vengono viste come soggetti, ma come detenuti che creano problemi all'istituzione carcere e quindi vengono totalmente, in un certo senso, totalmente disumanizzate, disumanizzati. E, ad esempio, nel caso di Susan, il fatto che ci sia stata una diagnosi in qualche misura psichiatrica, e questa diagnosi diventa incapacitante, no? Quindi diventa un'etichetta. Quindi c'è questa roba della terapia, quindi non ci si confronta assolutamente, l'istituzione, ma nemmeno i sanitari, cioè non solo gli sbirri, diciamo, le guardie, ma i sanitari che non sono, dovrebbero invece interagire, perché comunque in qualche, hanno un altro mandato, diciamo, però lo stesso non si confrontano con questa, non si sono confrontati con lei come con una persona. Tra l'altro lei si professava innocente in inglese, perché tra l'altro non conosceva l'italiano. Ecco, su di lei, prima parlavamo di Susan Ronconi, lei ha scritto delle cose su di lei, cioè interessanti, nel senso che ha questa cosa, lei, Susan chiedeva del figlio, non è stato fatto vedere, e Susanna Ronconi ha tirato fuori il discorso di questa proposta di Fratelli d'Italia di togliere addirittura la potestà genitoriale alle madri condannate a pene superiori ai 5 anni. E quindi ci dice, praticamente in questa maniera viene rilanciata, è rilanciato il fantasma patriarcale della cattiva madre, che quando già comunque la questione di genere dentro le carceri, cioè comunque le detenute donne sono, diciamo, un numero minoritario rispetto alla popolazione carceraria complessiva, ma lo stigma che le donne prigioniere vivono è molto forte anche nel momento in cui poi finiscono la loro detenzione. E difatti, sia parlando di Azzurra che parlando di Graziana, e anche loro appunto si sono tolte la vita quando non mancava molto alla libertà, diciamo, alla fine della pena. E anche qui, allora, Graziana Orlarei, una donna di 52 anni, e appunto si è impiccata proprio anche lei nella sezione femminile del carcere delle Vallette il 28 giugno scorso. E la prospettiva, raccontano appunto le compagne poi di carcere, la prospettiva di uscire dal carcere l'aveva mandata in angoscia. E ecco, anche qui era la sua storia, la storia di una donna condannata per aver tentato di strangolare il suo compagno, condannata a 4 anni con tutte le attenuanti, in quanto veniva da una storia personale, familiare, di maltrattamenti e abusi. E poi appunto subito dopo Susan, sempre alle Vallette, si è tolta la vita Azzurra, una giovane, mi pare 28 anni, sì, anche lei, insomma, lasciata in abbandono, diciamo, anche lei non doveva, mancava poco, insomma, anche alla sua uscita, però già durante la detenzione si parla di periodi di isolamento in cui appunto si era lasciata nell'abbandono, insomma, lamentava con la madre di essere lasciata nell'abbandono, e anche lei una storia tormentata sua, personale, insomma, esistenziale, e finisce così. Ecco, e su tutte queste vicende, insomma, di morti in detenzione, chi prende parola dal punto di vista dell'istituzione? I sindacati di polizia. E OSAP, mi pare che si chiama così, e SAPPE, che tontonano, perché appunto colgono l'occasione di queste cose per dire: poveri poveri, noi non sappiamo cosa fare, eccetera eccetera. Tra tutti, almeno gli articoli che ho letto io, l'unica persona che ha detto in altri termini "ma che cazzo c'entrano i sindacati di polizia" è stata Ilaria Cucchi, la quale appunto ha definito grottesco i comunicati sulle morti da parte del SAPPE, e dice, anzi, non c'entra, cosa c'entra, come si permettono. E poi dice anche una cosa significativa, per tornare al discorso del prendere parola anche al di là, insomma, anche fuori, diciamo, dal copione precostituito. Sì, lei dice: beh, a me questa fatica, cioè, sì, per me è una cosa pesante, diciamo, ad esempio perché lei entra, no, nelle carceri, fare le visite, così, è molto, per me è molto gravoso. Però io non posso fare a meno di farlo, lo devo fare, lo devo anche a mio fratello. Quindi anche lei parte da una situazione, diciamo, di implicazione non profonda, e insomma, secondo me, è autentica. Ecco, e quindi, vabbè, lei mette, per l'unica che mette in evidenza questa cosa, che i sindacati devono starsene zitti, degli sbirri devono starsene zitti. Tu as dit, j'irai vers un autre pays, j'irai vers un autre rivage, pour trouver une autre ville bien meilleure que celle-ci. Quoi que je fasse, tout est condamné à tourner mal, et mon cœur, comme celui d'un mort, j'y enterrai. Jusqu'à quand pourrais-je laisser mon esprit se déliter en ce lieu ? D'où que je me tourne, d'où que je regarde, je ne vois que les sombres ruines de ma vie, ici. Là où j'ai passé tant d'années, gâchant ma vie. Ecco, questi che abbiamo ascoltato e che stiamo ancora ascoltando in sottofondo sono i Ruidosa Immundicia, un gruppo austro-cileno, cioè dell'Austria, insomma componenti Austria e Cile, che mi dicono a ottobre suoneranno a Lubiana, quindi se qualcuno e qualcuna è interessata. Allora, concludo un po' il discorso, concludo per stasera, insomma, concludiamo il discorso delle morti in carcere, dicendo che appunto il ministro Nordio è andato così come un becchino a, già il giorno dopo alle Vallette con il codazzo di portaborse, ed è stato molto contestato, a lungo contestato da tutte le sezioni, con battiture, urla, libertà, eccetera. E quindi sono avuto un'accoglienza, cioè i prigionieri e le prigioniere si sono giustamente hanno espresso la loro rabbia, e avevo in mente anche di parlare un po', così approfondire un po' il discorso che delirante che ha tirato fuori il ministro sulle caserme, sul livello di sulla detenzione differenziata, appunto, però lo faremo magari un'altra volta perché mi è passata la voglia, sinceramente, tanto è meglio concludere dicendo che appunto è stato contestato dai prigionieri e delle prigioniere del carcere. Invece due parole ancora sul fatto che ci sono state in queste giornate, il 14, il 15 o il 15 e il 16, non mi ricordo, boh, comunque Nessuno Tocchi Caino è insieme alle alla Camera Penale, e sono andati in visita, in ispezione al carcere di Tolmezzo e al carcere di Udine. E poi ieri addirittura c'era una così rassegna sì, una conferenza stampa, insomma, che, dove davano gli esiti di queste visite. Comunque è uscito anche sulla Restituti Orizzonti, appunto, che cosa dicono, e praticamente viene fuori che Udine ha un tasso di sovraffollamento del 180%, e attualmente degli 85 carceri che sono stati visitati da questa delegazione è il più sovraffollato. E insomma, quindi questa del sovraffollamento è una questione molto grave, e anche a Tolmezzo una questione molto grave. E a Udine sono 140 prigionieri su 85 posti. Tolmezzo non hanno specificato i numeri, ma hanno evidenziato un grosso problema nell'area sanitaria. Ricordo che noi siamo a processo per aver denunciato le problematiche dell'area sanitaria sia di Tolmezzo che di Udine, e anche un grosso problema relativo alla magistratura di sorveglianza. Stesso problema relativo alla magistratura di sorveglianza c'è a Udine, viene definita da questi qua di Nessuno Tocchi Caino una magistratura di sorveglianza restrittiva, e cioè che impedisce, diciamo, misure alternative anche a detenuti che hanno pene molto piccole. E a Udine praticamente la metà dei detenuti hanno pene inferiori, significativamente inferiori ai 4 anni, quindi potrebbero accedere a misure alternative, ma c'è questo scoglio della sorveglianza, del magistrato di sorveglianza, che non è nuovo per noi perché sono tanti anni che abbiamo a che fare con questi magistrati. E ecco, e poi appunto in questo rapporto viene evidenziata il degrado del piano terra. Il piano terra al carcere di Udine, il piano terra è proprio l'area dove sono reclusi le persone che hanno, i detenuti che hanno problematiche considerate, che sono, vengono psichiatrizzati praticamente, che hanno o avevano o hanno sviluppato con la detenzione problematiche di questo tipo. Quindi le persone che più sono in difficoltà sono collocate nell'area più degradata del carcere. Ecco, io per stasera la chiudo qui e ci alla prossima. Ciao. mentre continuano ad andare questi ruidosa immondizia, siccome ci avviciniamo alle 9:30, prima di salutarci è il momento di comunicarvi i nostri contatti, per fare in modo che chiunque voi siate, ci state ascoltando in streaming, che ci state ascoltando in podcast o addirittura in FM qui Udine dintorni, riusciate a mettervi in contatto con noi per considerazioni, recriminazioni, osservazioni, una semplice voglia di contattarci. Quindi esiste una mail, un indirizzo mail che è precisamente liberetutti@autistiche.org e corrisponde all'Assemblea Permanente contro il Carcere e Repressione del Friuli e di Trieste. Per chi invece è impossibilitato a utilizzare il collegamento a internet, come ad esempio molte persone ristrette nel loro libertà, è possibile prendere carta e penna e francobollo e indirizzare il tutto a Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34 121 Trieste. Questa è la nostra casella postale, diciamo, fisica. Infine, le nostre canali di ascolto, oltre a questo che è la frequenza 90 MHz dei Radio Onde Furlane di Udine, esiste lo streaming con il quale potete ascoltarci in diretta da ovunque, sempre fornito dalla radio, e poi c'è la nostra pagina, diciamo, per ascoltare i podcast, e non dovete fare altro che digitare Zardins Magnetics Radio noblogs.org e vi ritrovate lì con tutte le puntate anche passate. Ultima, diciamo, possibilità è un canale Telegram che lo potete sul quale potete sintonizzarvi cercando Zardins, e quindi c'è solo quello, lo trovate subito, e lì anche vengono inserite le famose scalette, diciamo le preannunciate, diciamo dal mercoledì, così per chi insomma interessa. abbiamo cambiato, stiamo ascoltando le Toji Babe, erano una punk band degli anni 80 della Jugoslavia, loro erano slovene ma sono tuttora, diciamo, girano ancora, appunto, terranno il concerto insieme alla ruidosa immondizia di cui si diceva prima. Questo è, stiamo ascoltando un insieme della loro discografia completa che avevano pubblicato che altro, sì, non album, ecco. Ecco, allora lasciamo andare queste Toji Babe e non faccio altro che darvi l'appuntamento giovedì prossimo, sempre alle 20 su Radio di Forlane in diretta con Zardins Magnetics. Un saluto a tutte e tutti, alla prossima.